sai dei sogni. Quelli sono me, non li vendo. Che ne sai, che ne sai, chissà che mi scriverai. Forse un addio, o forse no. Ma tu che ne sai dei sogni? Luna mezza, se nel cielo sbaglia.